Uno spettacolo dal titolo Trattato di Economia a Montebarro Lecco con Andrea Cosentino e Roberto Castello che abbiamo in collegamento telefonico. Roberto, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie mille, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Noi credo sia la prima volta che ci sentiamo, ero abituato sempre a sentire Andrea, in questo caso un lavoro insieme, raccontacelo un po' in breve. Dunque, il Trattato di Economia è il frutto di un anno e mezzo circa di saltuari periodi di lavoro con Andrea, quindi frutto di una gestazione molto lunga, che è nata dal fatto che Andrea in un suo spettacolo in Not Here Not Now ad un certo punto ha una battuta in cui dice che un giorno gli sarebbe piaciuto fare uno spettacolo sull'economia perché è un argomento di cui non capisce niente. Siccome era molto tempo che pensavo la stessa cosa, dopo lo spettacolo sono andato da lui e gli ho detto se scherzava oppure se stava parlando sul serio. Lui mi ha detto che era serio, quindi abbiamo incominciato a vederci e di lì è partita questa collaborazione abbastanza strana, perché io vengo dal mondo della danza contemporanea, quindi non dal mondo del comico, del teatro, quindi c'è stato un lungo lavoro di scrittura insieme, perché Taste è un lavoro molto, molto parlato, molto chiacchierato, e poi abbiamo dovuto trovare una cifra che ci tenesse insieme ed è stato, devo dire, un'esperienza molto bella che ci sta dando anche grandi soddisfazioni. Senti, una scrittura che ha attinto anche da qualche parte? Dal fatto che ci siamo impegnati, abbiamo cercato di essere dei bravi e diligenti studenti, abbiamo cercato di leggere tutto quello che eravamo in grado di incamerare, raccogliere le informazioni che ci potevano essere utili a fare uno spettacolo che è in realtà molto, molto serio negli intenti quanto comico nella forma. Il tentativo era di dire quello che veramente ci sembra, così sentiamo in qualche modo l'urgenza di dire in questo momento storico sull'economia, sulla finanza, su quello che c'è, senza, evitando le banalità, i cliché, sì, le cose legate a un'attualità come dire che poi passa da un giorno all'altro, ma fondamentalmente sul ragionare sul rapporto che abbiamo con le cose e con la ricchezza in definitiva. Poi però rigirando la questione in una serie di assurdi e paradossi per cui a volte ci inchiodiamo su delle questioni veramente strampalate che però sono tutte estrapolate dalla realtà, cioè come dire osservazioni che abbiamo fatto sul quotidiano che evidenziano dei meccanismi totalmente deliranti del rapporto appunto che abbiamo anche noi con rispetto al valore delle cose, le priorità, le scale di valori, le cose che ci muovono nelle nostre giornate. L'argomento ovviamente è molto ampio, è difficile essere specifico in un tempo molto breve. Senti, e a quali risultati siete approdati nello spettacolo in scena rispetto proprio alle verità economiche? Al fatto che in definitiva parlare di economia, più parlavamo di economia più ci siamo resi conto che in realtà parlavamo del meccanismo del desiderio, che l'economia tende a fotografare quello che è è una sorta di algoritmo che regola i desideri delle persone, che li regola nel senso che ne constata l'identità, la forma e la misura e li mette in relazione gli uni con gli altri, e quindi si slittare dall'aspetto diciamo finanziario, quindi dei numeri, delle cifre, dei soldi, a quello del desiderio per sé, per le persone care, è anche quello che è il nostro desiderio di affermazione nel lavoro, no? di affermazione professionale. Insomma, l'argomento economico preso non dal punto di vista finanziario tende facilmente a slittare su un piano legato all'esistenza, mi viene da dire l'etica e la morale, ma fa pensare a qualcosa di trombone, ecco, ma non è assolutamente questo l'intento, però no, come dire, si tende a pensare l'economia sempre legata ai soldi, ecco. più ci abbiamo ragionato più ci siamo resi conto che non è vero. Mm-hmm. Senti, è uno spettacolo che state portando in giro, la prossima stagione sarà visibile anche a Roma o comunque in giro per l'Italia? Certamente sì, no, lo spettacolo sta avendo con nostro grande piacere e devo dire anche una certa sorpresa una Sta andando molto bene, stanno continuando ad uscire date, ogni volta che lo facciamo escono ulteriori date, e proprio a Roma saremo alle Carrozzerie Not a inizio di ottobre, per due settimane. Questo, sembra che la domanda fosse preparata, invece assicurare agli ascoltatori che non è così. Allora, comunque lo spettacolo gira parecchio, si può trovare il suo calendario al nostro sito della mia compagnia, perché la produzione è nostra, ed è www.aldesweb.org. Lì c'è Aldes Web, nelle news ci sono sempre le date segnalate, siamo anche in altri festival, Lega Ambiente, è un lavoro che è stato preso da molte situazioni che sono interessate ad un discorso appunto non serio ma non serioso per niente, sulle questioni dell'economia. Il lavoro in realtà fa molto ridere, cioè un lavoro con un forte connotato comico, quindi si presta anche a delle situazioni così rilassate come festival estivi, no? Non è fuori luogo, ecco. Senti, allora ricordiamo l'appuntamento a Montebarro, a Lecco, il 23 di questo mese, quindi che è sabato 23, però il link di riferimento Aldes Web va bene per saperne di Aldes più Web, anche sul luogo? Sicuramente si trovano sul sito tutte le indicazioni. Perfetto. che rimandano all'iniziativa. Benissimo. Certo. Allora, ti saluto. Chiedo scusa per non essere stato così pronto sulla cosa, ma il calendario è una cosa che mi mette sempre una grande soddisfazione. Però se ci sarà modo, o già lo avete fatto, di registrarlo, mi piacerebbe anche ospitarlo qui al Radioteatro. Quindi dici lo spettacolo in termini audio? Audio, esattamente. Se ne può tranquillamente parlare. No, non l'abbiamo mai fatto, non siamo così avanti. Stiamo arrivando in fondo, abbiamo fatto lo spettacolo ha debuttato quando è stato a novembre scorso, abbiamo fatto forse una ventina di serate su per giù da allora, e incominciamo a considerarlo quasi finito. E allora sarà modo di registrarlo e di ospitarlo qui alla Radioteatro, quindi ci lasciamo con questo saluto e questo impegno. Con vero piacere, davvero. Va bene, allora Roberto, un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio a te, grazie mille agli ascoltatori per la pazienza, buona giornata. Anche a te, ciao. Arrivederci, ciao.